siamo in piazza perché dopo 2 anni di pandemia era urgente renderci visibili nello spazio pubblico e riprendere parola, perché la crisi pandemica ha colpito soprattutto donne e persone LGBTQIA+. Abbiamo assistito a un aumento della violenza patriarcale in tutte le sue forme, che adesso trova espressione, la sua espressione più feroce, nella guerra che sta avvenendo. Un'ennesima guerra che ci obbliga a caratterizzare lo sciopero di quest'anno anche come sciopero contro la guerra e contro il riarmo che sta avvenendo. Si parla in questi mesi molto di PNRR e di investimenti anche per la parità di genere. Trovate in questi provvedimenti alcune risposte alle vostre richieste o non siete soddisfatte? Vediamo sicuramente che vengono usate alcune delle nostre parole, però vengono strumentalizzate e svuotate di senso politico. Abbiamo visto come il PNRR vuole favorire, dice di voler favorire la carriera delle donne, però non considera per esempio il lavoro di cura non riconosciuto, non considera il part-time obbligatorio a cui molte donne sono state costrette e i licenziamenti di massa, ma promuove un'idea per cui parità salariale, per cui la carriera delle donne diventa qualcosa che o ripropone, riproduce delle gerarchie tra donne o significano sgravi fiscali alle aziende, quindi le condizioni materiali delle donne non vengono minimamente toccate. Ad esempio abbiamo visto anche rispetto al piano antiviolenza che si è parlato molto di reddito di libertà, noi da 6 anni che parliamo di reddito di autodeterminazione sono nettamente diversi, uno perché costringe in qualche modo le donne a dover denunciare quando sappiamo gli iter della denuncia non sono sempre, diciamo, non sempre appunto poi le donne che denunciano violenza vengono credute nei tribunali. Sappiamo che il reddito di autodeterminazione fa anche esso delle gerarchie, per esempio le persone senza documenti, le donne migranti non possono accedere facilmente, ma soprattutto propone 400 euro dichiarando un'autonomia economica che possiamo immaginare che con 400 euro non riesci nemmeno a pagare l'affitto, quindi pensiamo che siano più che altro politiche di facciata che usano alcune nostre parole, però in realtà ripropongono una visione della società in cui noi non ci riconosciamo. In questi giorni Comune e Città Metropolitana di Bologna stanno presentando il piano sull'uguaglianza, che comprende anche il tema dell'uguaglianza di genere. Quali sono le vostre richieste a livello locale e in generale cosa possono fare le autorità locali in questa battaglia? Allora, il nostro piano non è mai stato di interlocuzione diretta con le istituzioni. Noi siamo un movimento globale che fa appunto dello sciopero e della lotta collettiva lo strumento che abbiamo per accumulare forza e produrre un cambiamento che passa attraverso tutta la società, cioè dalle scuole alle università. Le nostre richieste sono sempre state quella di un permesso di soggiorno europeo incondizionato, di un'educazione femminista e transfemminista nelle scuole, di un salario minimo europeo, di un reddito di autodeterminazione, come diceva prima Lina. Non abbiamo delle misure, delle policy specifiche da proporre, noi abbiamo una direzione di cambiamento che stiamo portando insieme e che, come diceva Lina, si vede che la nostra forza non può essere ignorata, perché appunto tutte le politiche delle istituzioni ora devono tener conto di parità di genere, ma danno delle soluzioni che sono o parziali o insufficienti o tendenzialmente ipocrite. Lo stesso Comune che appunto ha fatto questo piano per l'uguaglianza è lo stesso che, quando c'è stata la lotta l'anno scorso delle lavoratrici migranti alla IUX che rischiavano di venire licenziate, ha firmato un piano insieme alla CGIL che nei fatti non ascoltava le richieste delle lavoratrici. Ora per fortuna la lotta delle lavoratrici IUX è stata vinta anche grazie appunto a un lavoro e anche a un sostegno di alcune figure delle istituzioni per la parità di genere, però il piano che è stato proposto appunto non riesce a uscire dalla logica dei part-time obbligatori, non riesce a permettere alle donne di scaricare il lavoro di cura, cioè tutto il tema del welfare, degli investimenti su asili. Anche adesso c'è una lotta delle lavoratrici dell'asilo che si trovano in situazioni di iperprecarietà. E anche per esempio le lavoratrici del pronto intervento sociale lavorano per una cooperativa che in realtà dovrebbe offrire, cioè dovrebbe essere un servizio pubblico che però viene ancora una volta privatizzato. Quindi vediamo il disfacimento del welfare in tutte le sue forme, dal piano locale, perché stiamo parlando di situazioni nella città di Bologna, le lavoratrici del nido come le lavoratrici del PRIS, però ripropongono un'idea che è europea, cioè va nella direzione di queste politiche europee, dove si parla di welfare aziendale anziché di welfare universale, dove i servizi pubblici pubblici, l'abbiamo visto con la pandemia che cosa è successo alla sanità. Invece in questo momento si va verso un'altra politica che, anziché finanziare welfare, anziché finanziare il servizio pubblico, sta finanziando le armi. Questa è una piazza per l'uguaglianza di genere che però parla di una lotta che si interseca con altre. Mi avete parlato di lavoro, mi avete parlato di migranti e così via. Quali sono i vostri rapporti con gli altri movimenti? Movimenti per il clima, i movimenti per il lavoro e così via. Non una di meno è il primo movimento di massa qui in Italia che si è dichiarato intersezionale. Questo significa che l'analisi e la politica che facciamo, la pratica che facciamo, è un'analisi strutturale, quindi che va a vedere ogni ambito in cui si riproduce la violenza maschile. Questo significa anche cercare di intrecciare delle lotte, lo vediamo per esempio con le vertenze di cui abbiamo parlato prima, lo abbiamo visto l'anno scorso con le donne migranti in fabbrica. Cerchiamo anche di portare un'analisi che tenga conto del, per esempio, vediamo la transizione ecologica. Sappiamo che per esempio anche questa guerra si gioca anche su quel piano rispetto a politiche estrattive, rispetto a risorse e sfruttamento anche dei territori.